Il programma è abbastanza facile da scaricare, basta andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi www.agenzieentrate.it. Benissimo, che cosa ci troviamo davanti non appena apriamo questo misterioso software? Bisognerà scaricarlo, poi lanciarlo, così dice in gergo tecnico, e a quel punto si comincerà a inserire tutti quanti i dati, quindi dai dati delle spese che vengono chieste secondo le sette macrovoci del redditometro e al dato poi clou che è quello del reddito che si intende dichiarare. Poi alla fine tutto questo sistemone lo condenserà in un calcolo che darà appunto il risultato. Semaforo verde, se si è in linea tra il reddito dichiarato, che si intende dichiarare, scusatemi, e livello di tenore di vita, oppure semaforo rosso invece se c'è uno scostamento che va oltre il 20%, perché ricordiamo che comunque c'è una franchigia, si chiama in gergo tecnico, ma è una maggiorazione del 20% che comunque non fa scattare il semaforo. Certo.